B. Ascolta il testo e scrivi le informazioni. Simona. Sono sempre all'università. La prima lezione comincia alle 8 e non faccio pausa fino alle 13. Ascolto tutte le lezioni. Molti studenti non seguono le lezioni e preparano gli esami a casa. Preferisco andare a lezione perché così imparo a conoscere i professori e forse loro all'esame riconoscono il mio viso e sono più generosi.